sempre, ma avete rotto i coglioni con questo programmino? Perché è un programma di merda, dai, questa zanzarina, mo ti spruzzo l'autan, eh. Io avrei una leggera voglia di sentirvi proprio che chiudete bottega e basta con questa radiola di merda, basta, forza, dai, su. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Buonasera. Dica. Io vorrei parlare di puttane. Io questa sera farei sentire una cosa che ha una data. Caro David, popolo della zanzara, popolo della radio che è in ascolto, soprattutto da Roma questa sera, ma la questione di Roma interessa tutta Italia, diciamo la verità, tutta l'Italia. Roma è Roma, Roma è la capitale, interessa il mondo quello che succede a Roma. Certo, non Roma caput mundi, dai. Non le vicende, non dire banalità, non le vicende di un piccolo sindaco, diciamo, non le vicende di un piccolo sindaco, però in questo caso l'amministrazione delle città, perché c'è il giubileo, eccetera, eccetera. Io farei sentire una voce che ha una data, il 10 giugno del 2013, 10 giugno del 2013, poco più di due anni fa, il sindaco, ormai quasi ex sindaco, non vorrei azzardarmi, ma c'è una delegazione del Partito Democratico che è nelle stanze del sindaco, amici, nelle stanze del sindaco, e gli sta chiedendo: Amari, bisogna che tu te ne vai, se sono dimessi tre assessori, la storia degli scontrini è stata l'ultima mazzata, bisogna che ti dimetti, altrimenti ti sfiduciamo in Campidoglio. Un buon bicchiere di vino questa sera ce lo possiamo, qualcosa anche di più ce lo possiamo bere tutti per festeggiare. Insomma, abbiamo liberato Roma, Roma rinascerà. Storia degli scontrini, delle scene, è andato con la famiglia, invece ha scritto che andava con l'ambasciatore del Vietnam, non so che altro ambasciatore, col prete. C'è una lunga lista di persone che sono state scritte da Marino nelle ricevute e che in realtà non sono mai andate a cena. Ma la cosa incredibile, un prete, la comunità di Sant'Egidio, ambasciatori, eccetera, eccetera, eccetera. Finisce nella maniera proprio più ridicola, perché uno poi può giudicare dopo vari anni l'amministrazione di una città. Ma che male c'è a cena col sindaco, guarda, tutti negano, dici tu sei andato, no mai stato tu, però perché davvero mai. Non ci sono andati tu? Però ma perché davvero non ci dici, sono mai andati, hai mangiato la spigola? Io la spigola mai mangiata, no, ma e proprio... l'ambasciatore? Ma scusa, come ti viene in mente di dire che sono andato con l'ambasciatore del Vietnam, scusa, ma dici guarda, perché io ho una mia teoria la mia teoria è questa, sì, che lui... no, io adesso non posso, che adesso devo andare a fare un aperitivo con l'ambasciatore del Congo, scusami. No, perché secondo ma me io lui... devo andare all'ambasciatore del Congo ora, però scusami. Queste persone qui lui le ha viste, secondo me le ha viste magari poche ore prima nel pomeriggio. Questo è il fatto. Poi si sono salutati. Lui è andato a cena con la moglie, con gli amici, non so con chi. Però ha detto che andava con loro. Però poi a Roma si dice in una maniera molto semplice, ho un po' dimenticato alcune parole, questa non l'ho dimenticata. Si dice pulciaro. Un pulciaro, cioè quello che... No, ma non credo, sì, che sia pulciaro, quello. Sì, pulciaro, pulciaro. Mettetela sul vostro Google, staccate le mani dal volante della macchina, staccate, tanto la macchina va da sola, ormai ci sono le macchine che vanno da sola. Ma pulciaro, ma Marino è un chirurgo internazionale. Ma come, appunto, cioè le ricevute di Pittsburgh, ne vogliamo parlare, 8-9 mila euro. Anche dai, su. Di Pittsburgh. Pittsburgh. Senza controllo sanitario. Parla di lui questo. Donato. Donato Tavarese. Ti abbraccio, Donato, ti abbraccio. è finita con Marino, è finita, ancora non è finita formalmente, comunque con quest'altra follia in cui Marino dice regalerò 20.000 euro alla città. Scusa amico mio, o sei innocente ed erano pranzi, cene istituzionali, oppure non restituisci un cazzo. Se restituisci 20.000 euro che ti sei intascato o che hai fatto pagare al comune e non dovevi, non puoi, è impossibile che dici questa roba qui. Ti hanno consigliato male e come dice mi arrendo, sono colpevole. Però no, ma dai, su. Io ho deciso di regalare quei circa 20.000 euro spesi per rappresentanza del comune alla città. Ho dato mandato questa stessa notte alla ragioneria di fare il conto al centesimo e regalerò tutti quei soldi, compresi ad esempio i 3.500 euro che sono stati investiti in una cena per accogliere un mecenate che dopo diversi colloqui con me ha deciso di donare a Roma 2 milioni di euro. Guarda che c'è gente strana in giro. La sentenza del nostro amico Esposito, l'assessore al traffico, che dice non si può andare avanti. Pare che Esposito, tra l'altro, in queste ore sia dentro le stanze del sindaco, a chiedere al sindaco le dimissioni. Esposito chiede al sindaco le dimissioni. Non vedo grandi possibilità che si possa continuare ad andare avanti, purtroppo per la città il commissariamento temo non sarà un elemento. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Eppure c'è qualcuno che ho visto davanti al Campidoglio questa sera, nelle immagini che scorrono in televisione, di varie manifestazioni di mille gruppi, la cosa incredibile, solo a Roma, mille gruppi con tutte sigle strane, eccetera. C'era pure gente che dice io sto con Marino, l'onestà, sì, di Marino. A parte che la questione dell'onestà e della trasparenza, Marino ha fatto una bandiera della questione dell'onestà e della trasparenza, e proprio su cene o pranzi che lui ha fatto, diciamo avrebbe fatto con la famiglia, e in realtà le ha messi in conto al comune, no? Perché ha scritto, sì, certo, ha scritto con l'ambasciatore, col prete, con Sant'Egidio, tutto smentito dai diretti interessati. Cioè ce ne fosse uno che ha detto sì, è vero, ero io a cena quella sera. No, non ce n'è uno. C'erano anche delle persone, dicevo, che hanno messo dei cartelli con scritto io sto con Marino, non ne sta. Sentiamo la voce di queste persone, che curioso, chi sono questi qua? I poteri forti di questa città sono riusciti a condizionare partiti politici e stampa di tutti i colori, da Repubblica al Messaggero, al Tempo, tutte le testate giornalistiche e anche televisive, penso alla Sette, penso al dottor Mentana, si sono schierati tutti contro Marino. Siete pazzeschi, Giuseppe, sai che sono innamorato di te? L'unica cosa che mi viene da pensare, se si dovesse arrivare alle dimissioni, è che Marino ceda per stanchezza, perché sono mesi e mesi che c'è una campagna mediatica ignominiosa nei suoi confronti. Ragazzi, Marino, suggerimento di un grande ascoltatore della Zanzara, che riprendo integralmente, è il re dei pulciari, si dice a Roma il re dei pulciari, ma ve lo ricordate? Ma sì. La storia della panda, non voleva pagare le multe per 600 euro, poi le questioni di Pittsburgh, delle ricevute quando faceva il medico lì all'università, sì, di Pittsburgh, che anche lì, sì, c'erano i rimborsi e l'università lo bastonò, l'università di Pittsburgh. Infatti ha trattenuto il TFR, parte del TFR gliel'ha trattenuto. E poi adesso Roma, tutto questo significa una sola cosa, ma ha detto con grande affetto, non ho nulla contro Marino, non me ne niente, essere pulciari, cioè non c'è niente da fare, essere pulciari. Però quando poi scrivi delle falsità, uno può essere pulciaro anche nella vita, no? Tu sei un pulciaro. Ti piace a te. No, puoi essere pulciaro, puoi essere uno attento. Tu che non un po' ti riconosci. No, zero, io lo so, ma pulciaro, diciamo, pulciaro non è essere attento ai soldi, è un'altra cosa, no, è fregare, è rubacchiare, no, è un altro discorso. Allora, la questione di Marina è molto semplice. Quando tu però scrivi il falso, cioè quando tu scrivi una ricevuta sonata con l'ambasciatore, dai, e la porti al reato. Sì, no, ma scusami, potrebbe al di là del fatto etico, perché vabbè, quel fatto è. No, ma se tu scrivi sulle carte, certo, del comune, assolutamente, scrivi che sei andato a pranzo con Cruciani e poi Cruciani invece era con un trans a pranzo, cioè, peculato. Che andasse a pranzo con Marino, no? Se dicessero vai a pranzo con Marino o vai a pranzo con trans. Ma dipende quale trans. Dipende quale allora prendiamo l'ambasciatore vietnamita senza Cruciani. Quello, se tu scrivi che eri con l'ambasciatore vietnamita e quello ti dice no, ma è che lo scrivi su una carta del comune, ma quello è un reato, però, amico mio. Eppure la teoria dei poteri forti contro Marino, che a mio parere è una teoria ridicola. Ma non c'è nessun potere forte. È stata ribadita anche da Marino, dallo stesso Marino, in uno scherzo fatto dagli amici, dal brevissimo Barti Colucci, amico mio, di un RDS. Un piccolo spunto che piacerà a Cruciani. Aspetta, fai sentire questo scherzo. A 10 anni si costruisce. No, mi arriva un messaggio per te. Ma non me ne frega niente. Adesso a 10 anni si costruisce cinture esplosive a scuola. Mi hai fatto perdere il filo. Perché mi fai perdere? Ciao da un collega di Piacenza. Ma perché mi fai perdere la poesia? Siamo in onda? Sì, siamo in onda. Scusami, mi fai perdere la poesia. La poesia. RDS, tutti pazzi per RDS. Barti Colucci ha fatto uno scherzo. Renato Zero, non molto credibile, in realtà lo dico con affetto, però comunque è vero, cioè, come dicono che il nostro Renzi non era credibile, questo il nostro Renzi è molto più credibile del Renato Zero. Peraltro basta fare un semi Renato Zero per attirare Marino in che cosa? Cioè per far, come dire, per dare la stura alla vanità di Marino, perché c'è la vanità di Marino che indaffarato tra crisi eccetera risponde a Renato, lo chiama Renato Zero, addirittura lo richiama, cioè è lui che richiama Renato Zero. E c'è la teoria in questo scherzo, e gli scherzi si possono fare e si continuano a fare, RDS lo dimostra, bravissimi. Ma Ignazio, fammi capire una cosa, ma sto invito da sto sindaco di Filadelfia è vero o è falso? Io sono sicuro che c'è una grande aggressività voluta, perché io sono stato invitato dal sindaco di Filadelfia, che è venuto personalmente ad invitarmi. Ho capito. Ah, sì. Ignazio? Buongiorno, segreteria sindaco. Sì, sa, sono Renato Zero, volevo parlare con il sindaco gentilmente. Buongiorno maestro, le passo il sindaco. Grazie mille. Grazie a lei. Pronto Renato, buongiorno, sono Ignazio. Ignazio, come stiamo? Insomma, come vedi sotto un'aggressività continua, probabilmente perché stiamo veramente scuotendo poteri e privilegi che hanno retto per molti anni in questa città. Io voglio che parlate di cose interessanti, vi voglio sentire un'altra volta i bevitori di piscio. La Zanzara. Questione Roma, però, David, ci sono molte telefonate, mail, eccetera, che ci sono arrivate sulla vicenda di Napoli, dell'omicidio di Ercolano. Questa mattina ho sentito delle cose incredibili. Terribile quella storia. No, ma che storia? Incredibile. Sì, vabbè, la storia è terribile, certo, sono morte due persone, uno ha sparato. No, ma terribile anche la dinamica. Terribile, abbastanza chiaro. La storia, insomma, è evidente. È terribile la dinamica delle persone che sostengono il diritto a sparare. Quello ma è normale, ma quando ci sono due tizi. Allora non c'è nulla di terribile. Pregiudicati. No, ma allora è tutto normale. Cioè, se non è terribile, è tutto normale. Pluripregiudicati che ti assaltano con due pistole, che poi erano delle pistole giocattolo, ma sempre due pistole erano. No, uno non è che può sapere che sono delle pistole giocattolo. Certo. Un signore che è stato più volte aggredito e non ha mai usato la pistola prima. Si vede aggredito da due persone. Poi magari avremo un'altra versione. Questo ha inseguito tipo Far West i due rapinatori, eccetera, eccetera. E ha con sé dei soldi. Ho sentito qualcuno dire stamattina: ma erano solo 5.000 euro. E cosa c'entra che erano solo 5.000 euro? Non c'entra niente, ha preso e ha sparato. la trovo la cosa veramente più normale del mondo. Non riesco a capire, ripeto, tranne il caso dell'inseguimento. Se uno insegue una persona, spara, no? Quello cambia, capisci cosa. Che cambia completamente, perché c'è la dinamica, sì, del sangue freddo. Non pare che sia andata così. Sì, vabbè, infatti sono andata così, d'accordo. L'amico del gioielliere che ha sparato, senti che dice. Poi alla fine, se non lui non sparava a loro, cosa succedeva? Che loro sparavano a lui. E come andava a finire? Un altro commerciante morto, un altro venditore morto, e loro con i soldi a casa. Però purtroppo. Quindi aveva subito troppe rapine nel suo negozio? Lo sa che ha subito troppe rapine, quindi è inutile che ci nascondiamo, raga, purtroppo è così. Ancora l'ennesima rapina che ha subito, e l'ha andata male allora, è così, raga. La moglie invece di quel bravo uomo che ha fatto la rapina, e che poi per carità è morto, e come tutti i morti, pace all'anima sua, insomma, no? Che si chiama Tedeschi, signor Tedeschi, pluripregiudicato, eccetera, eccetera, c'è un curriculum criminale abbastanza lungo, signor Tedeschi, e sentiamola la moglie, ancora in un'altra performance contro lo Stato italiano, addirittura dice che non bisogna votare più la signora Tedeschi. Ho stato a rap tutti i giorni e non fa venire. Giro, quanti soldi? Pure se abbiamo una multa, quanti? Ci vengono a pescare nei buchi. Invece tutto il QN, i vitalizi si è finito. Si spigliano tutte cose là. Sono tutti marioni, non si deve votare più. L'Italia sa da bruciare, ci vergogniamo di essere italiani. No, io mi vergogno di essere nello stesso paese dove c'è questa signora, la gentile consorte dell'uomo morto. E dopo una tentata rapina, mi vergogno di essere nello stesso paese di questa gentile signora. Lo dico, magari mi attirerò le ire della camorra o non so di quale criminalità la moralità, ma me ne fotto. Ha detto in sequenza delle cose che forse voi non avete compreso. Noi abbiamo fatto, abbiamo però il traduttore qui nostro dal napoletano che ci ha spiegato. Dunque, lo Stato ruba tutti i giorni, poi ha citato i vitalizi. Le multe ce le fanno pagare, ci rincorrono fino in fondo, fino nelle fogne. Se non paghi la multa, se uno paghi la multa, dovrebbe oggi essere. Io ne ho pagata una. Cioè, in America, se non paghi una multa, ti mettono al gabbio dopo due secondi, no, il problema è che ganasce la macchina, sì. Intanto che non la prendi poi mai detto, più poi l'Italia si deve bruciare, non si deve votare più, non si deve votare più, l'Italia si deve essere bruciata, cioè, ragazzi, ma è una cosa incredibile. Io però questa qua la vorrei, direi, fissa, quasi fissa la zanzara ogni giorno. Sì, certo. Il mostro di Napoli, la signora Tedeschi. Io poi voglio dire una cosa, no? Ti muore il marito, cioè ti muore il marito in una rapina, cioè tu, ti muore tuo marito in una rapina, tu non è che vai a fare la cagnara in piazza. Uno si può pensare che stai a casa a piangere con i figli, sì, eccetera, no, chiamerai i tuoi avvocati, cerchi di capire cosa è successo, sì, oppure tiri no, dentro casa, non parli, no, questa va in piazza a fare cagnara, cioè è una cosa pazzesca. Cruciani, stai attento come fa con me. No cara Daniela, no. Marco da Latina, vai Marco. Buonasera, Marco, signor Cruciani. Allora, io direi una cosa semplicissima a questa signora gentile, come la chiama lei, di Napoli, che quando si è sposato sto ragazzotto virgulto, doveva sapere che faceva il malavitoso, il bandito, e quindi correva certi rischi. Non è che si è sposata un sacrestano. E lui sta strillando di tutte queste fregnacce che dice. E a quell'altro signore, invece, quel poveraccio del gioielliere, io lo proporrei, non so qual è la formula, non so qual è, per un encomio, per una sorta di medaglia d'oro al valore civile, perché non è un militare. Basta sapere quante ne ha passate, e le parla uno che, ringraziando Dio, mai a questi livelli, di questi galantuomini che vanno girando senza né arte né parte e campano meglio da tanti altri, semplicemente perché fanno i banditi, di questi galantuomini purtroppo ne ha incontrati tanti nella sua vita, compreso in questo momento, e chi fa il buonista gratuito è perché non c'ha mai avuto niente a che fare. Chi sarebbe? Chi sarebbe in questo caso? Anche un signore che sta là con lei, che puntualmente fa il buonista, fa il garantista. No, ma in questo caso non ho fatto il buonista nei confronti di nessuno. Ieri è sostenuto è sbagliato sparare. Non c'è buonismo, è sbagliato l'incitamento all'uso delle armi, non a sparare. Se quello si è difeso, no, ma scusa, con il signor Parenzo, sarei molto d'accordo con ma il signor Parenzo. Ma io non ho difeso, che non passi il messaggio che ho difeso i rapinatori, perché è una stupidaggine colossale. Nessuno l'ha detto. Questo simpatico da Latina. Lascialo parlare, però. Lasciamolo parlare. Infatti, che telefoniamo a fare? Vai avanti, prego. Posso permettere, signor Cruciani? Io capirei il signor Parenzo e sarei d'accordo con lui se queste cose capitassero una volta l'anno, due volte l'anno. Io sa, capita una volta un evento. Ma tu che mestiere fai? Ma io ho detto che sono contro l'incitamento alle armi. Io faccio l'imprenditore e di giorno sa qua in che condizioni stiamo noi? Di giorno lavoriamo e di notte montiamo di guardia. Cioè, che cos'hai? Un capannone? Che cos'hai? Non ho capito. Io ho un'azienda, un'aziendola che mi hanno lasciato, i genitori miei tra l'altro, c'ha 70 anni d'attività, e noi veniamo puntualmente l'ultima settimana, tre notti, la notte tra venerdì e sabato, la notte tra sabato e domenica, sì, e la notte di domenica. Sì. E ci rubano i cavi di rame, sai che cosa significa? Ci smontano lo stabilimento. Ma tu avresti sparato, cioè se vedi qualcuno che ruba i cavi di rame, spari? No, se ruba i cavi di rame no, perché ci ho messo la... Vabbè, se qualcuno si vuole introdurre dentro la tua azienda, tu hai porto d'armi? Dentro l'azienda non lo so, ma dentro casa sicuramente sì. Certo, io ho un regolare porto d'armi. E che pistola hai? Sono andato anche a scuola. C'ho una 9x21 e una 7,65. Ma tutti hanno 9x21 c'hanno? Ma che è la... Perché è un'arma che funziona in una certa maniera. Anche i poliziotti americani hanno le berretta italiane 9x21 senza fare pubblicità a nessuno. 9x21 e beh, l'altra che c'hai, una? Una 7,65 che era della buonanima di mio padre. Che c'aveva un'altra idea. Ma vai, vai a esercitarti o no? Certo, bene, io sono andato a scuola, perché non sono giocattoli, non sono cose che si portano in tasca. Beh, come questo si porta non c'è dubbio. Per guardapesto. Fermo lì, fermo, sì, ho capito tutto, fermo, fermi. Pubblicità e torniamo. Beh, amici miei. Gira il mondo, gira, e sempre più vorticosamente. Difficile capire tutto quello che accade, ma state tranquilli. A fine giornata vi racconto cos'è successo in Italia e all'estero, con i servizi della redazione e con gli ospiti in diretta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, con Roberta Giordano. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale. Fidati di chi conosci da 200 anni. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. No, you could have been a wonder, taking your circus to the sky. You couldn't take it on the tightrope. Quanto tempo, Staglio Olio, come state? Ragazzi, io farei riascoltare la moglie del rapinatore napoletano, cioè il rapinatore napoletano morto, perché davvero è incredibile. È incredibile soprattutto perché le persone che hanno subito un lutto familiare, cioè chi ha subito un gravissimo lutto come questa signora, lasciamo perdere l'appartenenza sociale, il fatto che fosse una famiglia certamente non di persone per bene, eccetera eccetera. Uno muore tuo marito, stai a casa, piangi, ti disperi. No, quella va sul luogo del delitto per attaccare lo Stato, quello che ha sparato, i politici, parla dei vitalizi dei politici, del fatto che ci fanno pagare le multe, che i politici rubano tutti i giorni, eccetera, eccetera, eccetera. Oscar, arrabbi tutti i giorni e non fa venire. Giro, quanti soldi? Pure se abbiamo una multa, ci vengono a pescare nei buchi. Invece tutto il governo, i vitalizi, se fì. Si spigliano tutto questo là. Sono tutti marioni, non si deve votare più. L'Italia sa da bruciare, ci vergogniamo di essere italiani. Ciao ragazzi, sto apprezzando, vi sto apprezzando. Allora Mario d'Aosta, vai, 800 24 00 24, vai Mario. Pronto? Dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Niente, naturalmente volevo dirti che io sto con il gioielliere, naturalmente, anche perché insomma io 10 anni fa circa mi sono ritrovato una notte faccia a faccia con uno che si è introdotto in casa mia, e io ho tentato di difendere quello che era la mia famiglia. Per tutta risposta ho ricevuto una coltellata che mi ha ferito solo di striscio, però sfortunatamente per noi era un rom. E allora? Io avevo una massa da baseball e gliel'ho fracassata in testa. Ecco. Il mio sbaglio è stato quello di chiamare i carabinieri. Perché? Che dovevi fare? Scusa. Io, secondo me, ripensandoci, avrei dovuto finire e sotterrare in giardino. Ho capito, amico mio, poi ti pizzicavo. Avrei evitato sì. Continui per mesi e mesi e mesi di ricevere minacce dalla sua famiglia, dai suoi amici. Sarebbe stato accusato di occultamento di cadavere. Ma chi stato... lo sapeva? Nessuno sapeva che era lì. No, no, però io voglio stare a sentire ancora Mario. Allora, nessuno sa. Ma perché? Che casini hai avuto? Che casini hai avuto? Eh beh, naturalmente ci sono stati, c'è stato il processo, c'è stata la denuncia, ho dovuto prendermi un avvocato e tutto questo perché io ero tranquillo a casa mia con la mia famiglia. E te ti sembra giusto questo? Ok, quando ne sei uscito da questa vicenda? Quanto ci hai messo? Però 4 anni ci ho messo. Ci hai messo 3 o 4 che anni? Adesso, se mi dovesse capitare un'altra cosa del genere, sì. Se io questo qua, se dovesse venire qualcun altro a casa mia, lo faccio fuori e lo sotterro sicuramente, sì, in giardino. Il problema di sotterrarlo in giardino, caro Mario, io te lo dico con vicinanza e anche con comprensione rispetto a quello che hai fatto e rispetto a quello che hai passato successivamente, perché sicuramente poi non ti è successo nulla dal punto di vista penale, giusto? No, perché beh, è stata mancano. Legittima difesa, perfetto. Non l'ho ammazzato. Però sai cosa sarebbe accaduto? Ma questo qua che ha fatto? È morto? Che ha fatto? No, questo qua ha solo ricevuto una botta in testa, gli è venuto un bel bitorzolo, sarà rimasto rintronato, spero, per tutta la vita, ma nient'altro. Ho capito, ma tu che cosa avresti fatto? Lo avresti finito con la mazza da baseball? L'avrei finito e l'avrei sotterrato in giardino. Allora, sarebbe successo una cosa molto semplice. Dopo un po' di anni, non sei un serial killer, non sei un esperto di queste cose, non sei un assassino professionale, no? E qualcuno avrebbe scoperto, perché magari un cane andava lì a vedere, che ne so, qualche bambino andava lì e spuntava fuori una mano, un piede, un qualcosa. L'avrei sotterrato molto bene. Sì, ho capito, Mario, ma però... se non l'ha fatto, è chiaro che è una provocazione della sua, perché infatti no, in buon sto senso... dicendo che sarebbe venuto. No, ma perché volevo far capire a Parenzo anche. Ma non è che mi deve far capire niente. Io magari mi sarei comportato allo stesso modo se avessi avuto il suo sangue freddo. Ma non c'è, ma coi criminali non c'è, non ho mai. Ma guardi che io. Male. Ma allora, coi criminali, io non ho mai sostenuto la necessità del mediatore culturale. Cioè, ma di qui stiamo parlando. Vabbè, di tutta Mario, un'altra sta dicendo cosa, un'altra cosa. Mario, allora, tu pensi che questo qua sia stato uno sbaglio? Cioè, la prossima volta accoppi qualcuno, quello che si introduce dentro casa tua, il ladro che si introduce dentro casa, accoppi qualcuno. Ce la faccio, sì. E poi lo sotterri in giardino. E non lo faccio più trovare. Mi eviterò almeno 3-4 anni di beghe. Sì, eviterai 3-4 anni di beghe, però molto probabilmente con le tecniche che ci sono adesso passeresti dei guai. Io te lo dico così, poi perché ma fai no, quello no, che per vuoi. Per carità, no. Capito. È ovvio che può sembrare una... Tu, che fai di lavoro, che mi sono dimenticato all'inizio, cosa hai detto? Io faccio l'autotrasportatore. L'autotrasportatore. Sì. Va bene, Marco Milano, vai. Ciao. Ecco, facciamo un esperimento, vediamo se Parenzo ha i coglioni, perché ieri sera diceva che siamo tutti dei ganassi a quelli che affermano che se viene qualcuno in casa gli spara o cose di questo genere. Allora, facciamo questo esperimento, vieni a casa mia, ti metti prima un preservativo in testa, vieni a casa mia, nottetempo, senza invito. Aspetta. Parlo io, parlo dimmi, tutti. Dimmi Marco, vai. Sentiamo, dimmi. Siamo alla stupidaggine, avanti. Allora, sì, no, non è una stupidaggine. Beh, vediamo abbastanza, se siamo tutti dei ganassi, sembra di sì, perché però, tu prego. Parli di persone senza conoscerle, per cui non puoi sapere se siamo dei ganassi tutti qua. Ci sarà qualche ganassa sicuramente. Sicuro. Io sono una persona tranquillissima, lavoro, non lo porto d'armi, non ho mai fatto del male a nessuno, mi piace il mio lavoro, amo mia moglie, i miei 3 cani, non ho figli. Se qualcuno fa del male a qualcuno di loro, io posso diventare in un nanosecondo il più feroce dei spietati puttini, ok? E quindi prova, Parenzo, metterti un preservativo in testa, vieni in casa mia a nottetempo senza invito e io farò di tutto per farti uscire in un sacco nero con un cartellino. Beh, questo è un ragionamento intelligente, non ho capito, ma è un ragionamento cosa vuol dire sta roba? I pochi mezzi, non so cosa vuol dire. Lui vuole dire una cosa molto semplice. Marco sta dicendo che sostenere e attaccare chi si fa giustizia da solo. Io faccio chi si fa giustizia da solo, quelli chi, cioè, chi reagisce giustizia da solo. Vabbè, cioè, Marco sta dicendo fanno bene. Ma non siamo tutti, non siamo parlo tutti di lei, parlo anche di lei forse, ma di quegli esaltati che telefonano e con orgoglio dicono abbiamo le armi in casa, siamo pronti a sparare. Tutto questo mondo qui che in realtà vorrei vedere te. Ma non c'è dubbio, ma io infatti ma è fuori di dubbio che se qualcuno facesse male alla mia famiglia reagirei, non c'è ombra di dubbio. Dopodiché, allora, siccome non ho il porto d'armi, però, ma non ce l'ho perché non ne sarei io. La mia idea è questa: più armi per tutti, però inizia tu a comprartele, più armi inizia tu a prendertele. Allora, sono tutti bravi a fare i canassi, di noi ci vogliono più armi, più robe. Poi voglio vedervi io lì. Armi per tutti, per chi lo può fare, per chi ha la forza di farlo, eccetera. vabbè, un concetto molto semplice: se questa cosa fosse consentita, se si potesse ammazzare a sangue freddo chi entra in casa senza invito, ripeto, di notte, ma da nessuna parte si può fare, qualche balordo del cazzo. No, si può fare, sì, in America lo fai tranquillamente, non si fanno come. Guardi che anche lì se spari a uno, non è che anche lì ti danno una medaglia abbiamo al capito, valore. Abbiamo capito. Ma non ti passi, mica passi tutti i guai che passi. Andiamo a Torino, Ettore, Marco, grazie. Ciao. Ettore, vai. Eccomi, volevo condividere con voi una riflessione che mi avete indotto con la vostra trasmissione. Io questa mattina sono rimasto decisamente turbato da una notizia che ho letto sui giornali, cioè che le morti bianche in Italia sono in aumento. E io ritengo che questa notizia... Le morti bianche, cioè le morti sul lavoro. Le morti sul lavoro. Noi tutti ma giorni... da tanti anni. Così. Sì, sì, però erano in contro... cioè siamo in controtendenza, stanno aumentando. Noi tutti i giorni seppelliamo tre lavoratori, uno per ogni turno. Per carità. A me sembra che allora... un paese occidentale, non comunista, nel XXI secolo sia una cosa inaccettabile. La sicurezza sul lavoro ha fatto passi da gigante, ancora si muore per il lavoro, vabbè, no, è normale, si muore di più. Ma io vado a lavorare, vorrei portare a casa la pelle e rivedere mio figlio, muore di più sul lavoro, vabbè. Questo mi ha fatto non c'è niente di sicuro nel mondo, nella vita allora poi ho sentito voi un po', mi sono tirato su di morale. Perché mi avevo pensato magari c'è ragione Feltri, cioè nelle morti bianche vengono anche contabilizzati i banditi che vengono ammazzati mentre fanno il loro mestiere. Sì, quelle sono morte bianche, è vero, l'ha detto Feltri questa mattina, allora, lo ha ripetuto anche altre volte, cioè sono morti sul lavoro. E cioè... allora meno male, vuol dire che gli italiani più o meno onesti si sono rotti i coglioni di subire almeno le angherie più gravi e reagiscono. E se qualcuno spara a un delinquente, secondo me fa bene per reagire. Fermo lì. Torniamo tra pochissimo, dicono che si sta per dimettere. Sì. Ha preso carta e penna, però noi aspettiamo sempre le cose ufficiali. Carta e penna, Marino si stia per dimettere. Cioè, sta lì con la carta, con la penna, sta per dire. Se, no, com'è che si fa la cosa ufficiale? Beh, sentiamo. Vieni a casa mia, ti metti prima un preservativo in testa. Adesso la borsa. Breaking news. Si è dimesso il sindaco di Roma pochi istanti fa, Ignazio Marino si è dimesso, lascia dunque il Campidoglio e scrive: care romane e cari romani, ho molto riflettuto prima di assumere la mia decisione, l'ho fatto avendo come unica stella polare l'interesse della capitale d'Italia, della mia città. Ignazio Marino si è dimesso, da domani una nuova pagina per il Campidoglio. La Zanzara. Cruciani, ti auguro veramente che tu ti possa convertire. Si è dimesso Marino, hai sentito? Si è dimesso Marino, cari romani, ho molto riflettuto prima di assumere la mia decisione. L'ho fatto avendo come unica stella polare l'interesse della capitale d'Italia, della mia città. Quando poco più di 2 anni e mezzo fa mi sono candidato a sindaco di Roma, l'ho fatto per cambiare Roma, strappando il Campidoglio alla destra. Il bello è che nei giorni scorsi continuava a dire Marino che l'alternativa a lui era la mafia, cioè che senza di lui era un argine alla mafia. Bah. E c'è gente che continua a scrivere, vedo su Twitter, su Facebook, esultano quelli di Carminati, esultano quelli che facevano gli affari con Buzzi, a parte che gli affari con Buzzi li hanno fatti tutti, cioè non... con riferimento alla destra romana che ne ha combinati tutti i colori, per carità, in 5 anni a Campidoglio, e infatti Alemanno è stato sconfitto. No, ma io vorrei rimandare però Marino quando diceva la destra torni nella fogna da dove sono venuti. Ed è quello che veramente io ho visto arrivando in Campidoglio, e dobbiamo dirlo, dopo le rovine lasciate da quella destra che oggi si erge a scudo morale di questa società. Ma non hanno vergogna? Perché non tornano nelle fogne da dove sono venuti? È là che devono andare! A un certo punto pure Marino non si è aiutato, certo una botta gliel'abbiamo data pure noi, una botticella, come dire, una spintarella, no? Ma una sì, spintarellina, però, sì, una spintarella. Però più il Vietnam, secondo me, le cene sì, non più, fatte, più il dai. Vietnam, dice, più ragazzi, Vietnam. Dai, sì. Sì, più il Vietnam, però anche sapere che il Papa è furibondo con te, no? Anche vabbè, è quello, sai, quello non è non è il massimo. Anche far conoscere all'esterno che il Papa è incazzato come una sì, bestia. Sì, ma tutto fa, però le ricevute con se uno va a cena con gente sì, ma poi non lui... c'è andato, ragazzi, quello c'è poco da fare. Poi lui a un certo punto ha detto pure che il Papa non doveva rispondere in un certo modo sull'aereo. Sì, cioè si è messo lì, pure certo. contro il Papa. Cioè a un certo punto ha detto il Papa non era meglio che non rispondeva alla domanda sbagliata secondo lui. Un po' mi mancherà però, no? Beh, mancherà a tutti no, perché era fonte di divertimento assoluto, capito? Di divertimento assoluto. Il Santo Padre va negli Stati Uniti, parla dei cambiamenti climatici, del petrolio, del dramma delle armi, fa dei discorsi epocali sul ruolo della donna anche nella Chiesa e il giornalista italiano quando sale a bordo gli chiede ma l'ha invitato lei Marino? Ma se io non sono il Santo Padre, ma se me l'avesse fatto a me dopo che avevo preparato un viaggio in cui ho parlato di temi epocali, insomma un pochettino avrei detto non è questo lo scopo del viaggio della conferenza stampa. Con no, Francesco detto, dimmi. C'è una roba divertente perché nella lettera che lui ha scritto dice posso sempre ritirare le dimissioni entro 20 giorni cioè aspetta questo è divertente cioè lui vabbè, praticamente dai, dice su, no sono è cose un virgolette formali, sono cazzate dai no, ma è divertente che lui lo scriva dice mi dimette ma posso sempre ritirarle entro 20 giorni guarda che questo sarà un è una cosa ma, divertente ma figurati dai su sì ora verifica posso ritirarle entro 20 giorni sì, ho è vero, compiuto è vero. La mia scelta presento le mie dimissioni punto, sapendo che queste possono per legge essere ritirate entro 20 ma giorni. È una cosa non patetica, è, lui aggiunge, dai. Non è un'astuzia la mia, è la ricerca di una verifica seria se ancora possibile con queste condizioni politiche. Cioè, se ancora possibile, capito? Cioè, lui dice, entro 20 giorni posso ritirare, quindi vuole fare una verifica per vabbè, vedere... Ma è un modo per, no, per uscire, per tentare certo, di uscire in maniera però, più per degna. Completezza te lo dico, per completezza ma no, ma non è questione dico. Di completezza, è questione di ridicolaggine. No, completezza di informazione. Ma no, vabbè, ti dico quello che ha scritto. Non è porta a porta. Non Stefano ci interessa Roma, niente, dai. Via. No, ci interessa, ma non è porta a porta. Ah, no, vabbè, per carità. Stefano, dai. Pronti, ecco. Mica male porta a porta. Sì, no, per carità, ma è una cosa diversa però. Stefano da Roma. Mi sentite? Sì, dimmi. Ciao Giuseppe, ciao Davide. Io che tempismo, un commento proprio su Marino, ma non sapevo ancora che si sarebbe dimesso. Sì. Secondo me Marino è diventato mitomane, cioè c'ha bisogno del TFO, perché voi lo sentite nelle dichiarazioni che faceva, che fa. Sembra, vi ricordate i ragazzi della terza C quando c'era il Brambilla? Io sono amico del presidente degli Stati Uniti, c'ho la Ferrari. Marino, infatti, guardate che Marino ci è andato davvero a cena con l'imperatore dei Klingon, lui è convinto di esserci andato, no, capito? No. Lui gli scontini ci ha scritto cena con l'imperatore del pianeta Klingon, pranzo con Gesù, colazione con Barabba, lui è convinto, lui vive in un mondo tutto suo, capito? È così. Vabbè, ma tu sei contento o no da Romano che si rimette Marino? Sì, finalmente. Sì. Ma tu l'hai votato? Perché poi chi è che l'ha votato poco più di due anni fa? Io non l'ho votato, io ho votato a destra, mi dispiace a Marino, il voto non glielo do, ma questo l'hanno cacciato da Filadelfia, gli hanno sequestrato il TFR a Filadelfia, viene qui e brega per fare per rubare la cresta su 20.000 euro, ma dai ragazzi, ma di che stiamo parlando? Lo so, ma questo è inattaccabile questo. Il punto è che se vuoi fare la grattata, se vuoi fare la grattata, cioè se vuoi fare il piccolo furtarello, se vuoi fare fallo meglio, no? Non è che scrivi sono andato a cena con Don Coso, sono andato a cena con Sant'Egidio, sono andato a cena con Vietnam, mi interpellati, tutti quanti dicono no, non ci ricordiamo niente, ma non è vero, mai stato a cena. Ma dai, ripeto, cosa Giuseppe, lui è convinto di esserci andato, lui li ha visti davvero. Ma no, vabbè, ma non mica può essere bipolare, dai, su. Sì, come no, ma tu dici era al tavolo accanto, era al tavolo accanto. No, può essere al tavolo accanto, che ne so. Ma se tiene le dichiarazioni, ma che ha fatto stasera, ma non sembra quella del cavaliere il 25 luglio. Ho rimesso le dimissioni nelle mani del l'imperatore, ma dai, sì, posso ritirarla entro 20 giorni, ma la cosa veramente ridicola. Ma dai. Napoleone che va all'isola d'Elba, questo fra 100 giorni torna e si pensa ad essere imperatore della Francia. Domenico da Roma, vai. Domenico, vai. Buonasera, Cruciani. È la sera delle dimissioni del sindaco di Roma, anche se c'è un piccolo giallo che giustamente Parenzo ha fatto ruotare. No, perché questo è il punto, è divertente. Sì, il punto divertente, ma è chiaro che se uno se si dimette, si dimette, dai. Cioè, sì, posso ritirarle entro 20 giorni? Capisci che è pleonastico? Tutti tremano. È inutile scriverlo. Ovvio che uno le può ritirare, ma lui non dice solo quello. Lui dice, perché voglio verificare se c'è ancora agibilità politica. Non ti vuole più nessuno, cioè, Marino, non ti vuole più nessuno. Secondo me sarebbe meraviglioso. A un certo punto le ritirasse, stupendo. Non ti vuole più nessuno. No, dai. No, secondo me dovrebbe ritirare. A un certo punto dovrebbe dire sì, tra due legge, giorni. Perché per legge si può fare. Per legge si può fare, ma lui il fatto che lo rimarchi e dica, perché uso questi 20 giorni, quindi non se n'è andato. La vera cosa è che si è dimesso, ma in realtà non se n'è andato, fidati che non se n'è andato. Andrà in Campidoglio domani mattina, dici? Certo, ma scusami, adesso vedete che mi sto facendo mandare, ma certo che ci vado domani mattina. Tu informati intanto, vai in forma. Si presenta domattina alle 8, eccomi qua, sono Ignazio Marino. Ma come, non ti eri dimesso ieri? Cazzo, ma che cazzo fa? No, dice Marino, ho detto che mi sono dimesso, però ho 20 giorni di tempo per decidere se ripresentarle. Ma è così, fidati che è così. Ma sono regolamenti pure assurdi questi qua, come al solito l'Italia, le cazzo. Come al solito l'Italia burocratica, che uno, anche se si vuole dimettere, ha la possibilità entro 20 giorni di non dimettersi più. Ma vi rendete conto o no? Cioè, ragazzi, qui uno si è dimesso. Vedere se c'è agibilità politica. Non c'è! Perché si sono dimessi tutti, non c'è agibilità. Dice, no, 20 giorni di tempo, voglio vedere c'è agibilità politica. È l'Italia, ragazzi. Guarda che è così adesso. Domenico, vai, Domenico, tu informa. Siamo un paese abituato a ripensarci, no? No, ma in genere ho capito, ma non su questo, almeno quando uno, se, siccome non si dimette nessuno, quando uno si dimette ci dovrebbe essere una cosa definitiva, cioè se firmi una lettera di dimissioni dovrebbe essere definitiva, invece no, nel regolamento penso di tutti i comuni c'è la possibilità che tu ti dimetti, però se entro 20 giorni ci ripensi resti sindaco. Ma uno dice che poi grandioso, Domenico, dimmi. Io ho telefonato per quanto riguarda la sicurezza in casa, perché volevo raccontare brevemente quello che ma mi sei accaduto. Di Roma, non ti tocca sta cosa di Marino, non te ne frega niente, adesso ci vuoi parlare della sicurezza in casa, tanto non ti rubano in casa, cioè dove abiti a Roma? Mi hanno già rubato, peraltro io in realtà vivo a Fondi, ho detto Roma perché lavoro a Roma, ma faccio tutti i giorni Fondi Roma, Fondi provincia di Latina, un piccolo paese. Ecco, io ricevo una telefonata al signor, bravissimo, lo conosco bene, il signor Antonio Zechila, il mitologico Zechila, te lo ricordate il signor Zechila? Sentiamo cosa pensa Zechila di questa divisione. Chiamando, dovrebbe sapere, io alle 19.44 sono in trasmissione, forse vuole intervenire sulla vicenda Marino, non lo so, Zechila, Zechila. Adesso dopo è un costituzionalista Zechila? No, richiami adesso, Antonio, richiami adesso, se sei all'ascolto, Antonio Zechila, che ha detto che non mi ricordo com'era il suo nome, Ermutanda, sì, Ermutanda, anche se che lui un po' si offende adesso. Di questa no, ma vuole dire qualcosa sicuramente, signor Zechila, non è che chiama pane bianco, tu dici, no però meglio Zechila di pane detta bianco. Detta Ermutanda, vabbè, dipende dai momenti. Allora, Domenico, che vuoi dire? Beh, ho ricevuto una rapina, una bella visita da Gaglioffi circa 3 anni fa. Sì, sì. In piena notte con la mia famiglia, ho una moglie e 2 bambini. E aspetta un attimo, aspetta. Antonio, che c'è? No, stavo ascoltando, volevo intervenire, ma intanto vorrei riportare la discussione sul serio. Sento con questo. Come sul serio, amico mio? Aspetta un attimo, aspetta che dopo ti richiamo, scusami. In che senso discussione sul serio, Antonio? La proposta di Antonio Zechila alle 19.45 nel giorno delle dimissioni di Marina, Vittorio Sgarbi sicuramente si candida, ti richiamo tra un po', aspetta un attimo, aspetta che si sente male, aspetta. Sì, perché io sono favorevolissimo a Sgarbi, anche presidente del consiglio, figuriamoci sindaco di Roma. Aspetta un attimo che ti richiamo, aspetta che ti richiamo. Allora, ritorniamo al furto subito da Domenico. Quanto tempo fa hai subito questo furto in casa, Domenico? Ma 3 anni fa, in piena notte, per fortuna non ci siamo svegliati, non ci siamo accorti di nulla. Vabbè, andiamo al sodo, useresti una pistola? L'ho comprata, ho preso il porto d'armi. Ottimo. Ecco. Che gli vuoi dire a questo qua? Tu che cosa gli vuoi dire a questo qua? Parenzo, io vorrei capire. A Domenico da Roma, cosa gli vuoi dire? Ma cosa gli vuoi dire? Ha subito un furto, è incazzato e si è comprato una pistola. Ha preso il porto d'armi, tutto regolare. Non è che stiamo qui a Secondigliano. L'unica cosa che io dico è che non c'è da fare il se lui l'ha presa e si sente di gestire questa. Ha fatto benissimo, ha fatto i corsi, ha il patentino. Lo Stato gliel'ha dato benissimo. Non è che non lo biasimo. Però questa cosa ti preoccupa? Io biasimo quelli che incitano la corsa alle le armi, che deve, che è una follia. Ma secondo scusa, me spiegami se una cosa. Questo signore che è una bravissima perché uno persona politicamente, ha preso il perché uno politicamente non può essere a favore del fatto che venga reso credo, più facile, ecco, il porto bravo, d'armi. Questo è il punto, perché io credo che per difendersi, per difendere i cittadini, ci sia lo Stato che deve farlo, perché io pago le tasse, ma perché lo Stato non è che mi ci difenda. Possono essere i poliziotti in ogni io casa, io non dai. Sono capace di sparare e ho paura no. delle Domenico, armi tu come hai e fatto? Ho paura anche Domenico come hai fatto? Come ho fatto a difendermi? No, come hai fatto con l'arma, la usavi già, la sapevi usare. Ma io non ce l'ho con Domenico, non mi interessa. In seguito a questo la nostra vita è cambiata, perché lei cosa, immagini cosa vuol dire accorgersi di ciò che è accaduto, cercare nella camera dei ragazzi, correre nella camera dei ragazzi certo. e trovare la porta aperta, le coperte ma di una bambina di 13 anni spostate. Ma è chiaro, è terribile. Abbiamo accertato che non è accaduto nulla. Ma un padre che subisce questo e capisce che, perché poi nella nostra zona altri hanno subito in quei giorni questi furti e alcuni testimoni hanno dichiarato che erano circa 6 persone dell'est. Ora lei provi ad immaginare, a capire, a rendersi conto di essersi trovato 6 persone in casa, che peraltro sono anche cinturoni di chiudo, ma mi avrebbero massacrato, per cui adesso dormo con una bella pistola dietro il cuscino, con il colpo in canna, sapendo che potrei far correre dei rischi anche ai miei familiari, ma non ci penserei due volte, perché io per fortuna... Non potevo mettere le sbarre anche alle finestre, io ad esempio ho messo le sbarre e lasciato l'allarme alle finestre, però abbiamo voglio dire... Cane, abbiamo l'allarme, questi entrano ovunque. Ti senti più sicuro con questa pistola? Ti senti più sicuro? Ma diciamo che forse, come dire, mi sento meno, mi sento forse più responsabile nei confronti della mia famiglia. Poi magari i fatti non mi daranno ragione, forse se dovessero rientrare mi troveranno di nuovo a dormire. Me lo auguro e me lo auguro per tutti. Ma il senso di impotenza che si sente dopo una cosa di questo genere, perché per fortuna non è accaduto nulla. Ma se fosse accaduto qualcosa e non fossi stato in grado di difendere mia figlia o mia moglie, non so se me lo sarei perdonato. Per cui preferisco che questi rimorsi li abbia qualcun altro la prossima volta. Grazie, 30 secondi. Che tempi. La Zanzara. Get your motor running. Looking for adventure in whatever comes our way. Enzo da Napoli, Enzo, dimmi. Salve, buonasera. Ciao, dimmi. Ah, io volevo dire che tutte le cose, allora da premettere, voglio premettere che io sono con il gioielliere. Sì. Ma quello Napoli. Tutti siamo col gioielliere, è chiaro che No, perché questa mattina per esempio ho sentito, non mi ricordo chi, forse una giornalista del Corriere della Sera, Maria Teresa Meri, dire beh, quello è un omicidio tecnicamente. Beh, certo, tecnicamente c'è uno che ammazza due persone, su questo non c'è dubbio. Quello non è che è la Palissiano, è scoprire l'acqua calda. Il problema non è questo, il problema è che quei due signori erano armati, anche se poi erano pistole finte, ma non vale nulla da questo punto di vista, non conta assolutamente niente, perché quando uno si vede davanti due pistole non è che pensa che siano finte, no, pensa che siano vere. Peraltro questi erano pregiudicati, eccetera, eccetera, anche se lui non lo sapeva. Quello ha sparato, è omicidio, certo, due persone morte, ma l'omicidio è un'altra cosa. Cioè, l'omicidio, quella è legittima difesa, a meno che, ripeto, a meno che non veniamo a sapere che questo qua, a un certo punto, mentre questi scappavano, li ha rincorsi con tutti i mezzi possibili e immaginabili e ha scaricato tutto addosso. Allora quello è un po' diverso. Allora che vuol dire Enzo da Napoli? Io ho chiamato solamente perché lei ha derito la moglie del... Beh, certo, ma che devo fare? Ma l'hai sentite quelle frasi o no? L'hai sentite quelle frasi? Invece di stare in silenzio... Le giustifico, gliele posso giustificare, cioè, le cosa frasi? Giustifica? La cosa perché contro lo Stato da parte della moglie di uno che di mestiere fa il criminale? Ma dai, su, dai. Sì. Giustificami queste cose, dai. Dice, ma dai. Allora, lei aveva tutto l'astio verso lo Stato, perché magari se lo Stato, invece di rubare tutti i soldi, come lei ha detto, avesse dato l'opportunità a quell'uomo di lavorare, magari quell'uomo la rapina non andrebbe a fare, perché quell'uomo prima di andare a fare la rapina lo sa bene che può essere. E allora? Se non dalla vittima, se lo Stato lo avesse aiutato, fosse in grado. Esatto. Sì. Quindi teoria vecchia come il cucco. Teoria vecchia come il cucco. E devo dire, non ridicola, non so. Più che ridicola, cioè la giustificazione alle parole di quella signora, la ripeto, lei deve dare da mangiare alla famiglia e non e che loro. Ci deve pensare lo Stato? E che ci deve pensare? Lo Stato ci deve pensare? Lo Stato deve imporre delle lavoro. Condizioni alle persone. Dai, su. Appunto, è che siamo forse dicendo la stessa cosa. Lo Stato, ma veramente lo dico ironicamente, e invece lo Stato che ha, lei dice lavori ironicamente. È certo che lo dico ironicamente, cioè, senti, quello è un criminale, ma... l'alternativa non è che lo Stato dà il lavoro, capito? L'alternativa alla criminalità non è... Io sto giustificando l'azione di quella donna verso il Stato, perché non ha le condizioni, nessuno qua giovane. Ma quelli sono dei criminali per scelta, non per necessità, è chiaro, sono dei criminali per scelta. Ma lei cosa ne sa? Un'altra cosa, lei ha detto: io mi vergogno di appartenire dove vive questa, nel paese dove vive questa donna. Io mi vergogno di appartenere nel paese dei suoi padroni. Invece di fare un terreno fertile alle aziende, gli organizza i forum per delocalizzare, ha capito? E quello mi vergogno. Ma guarda, sono cose troppo complesse per te, questi problemi qua, la delocalizzazione, sono... queste robe qui, non ti preoccupare. Esatto. Anche per noi sono complesse. La cosa fondamentale è un'altra, che lì tu stai giustificando le parole criminali della moglie di un criminale. Morto, in quel peraltro, morto. Se che gli hanno ucciso il marito, vabbè, guardi, io faccio il è il rischio che si assume, è il rischio, è il rischio, anche io le rapine, è il rischio che uno si assume quando, esatto. È il rischio che uno si assume, esatto. Quello che fa il rapinatore con la pistola, quella donna ce l'ha tanto con lo Stato. Ma non me ne frega niente, quella è una roba ridicola, vergognosa, non me ne può fregare di meno. Ce l'ha lo Stato, ce l'ha le persone. Come? Non le derida le persone che hanno perso un marito. Io derido chi mi pare, è chiaro? No, io derido chi mi pare. Rispetto delle persone. Lei deve avere rispetto delle persone. Io il rispetto non significa rispetto come persona, e quindi deve dare rispetto. No, io non esigo rispetto, io esigo franchezza. Io davanti a quelle parole un po' mi metto a ridere, perché mi fanno ridere, le trovo meravigliose, le trovo drammaturgiche, le trovo teatrali, meravigliose quelle parole lì, che magari vi faccio riascoltare, ma soprattutto trovo che siano espressione di una sono altamente ridicole per il loro contenuto, cioè prendersela con lo Stato, dire che l'Italia va bruciata, vado via dall'Italia. L'Italia così come sta andando avanti va bruciata l'Italia, così altro, come sta andando eccone avanti. Un altro. Vabbè, ciao, eccone ciao, un altro ciao. Sì. Ciao, ciao. A lui non l'ha, a lui no, a lui non l'ha, a lui non l'hanno invitato. Detto il Papa, vieni qua, e lui che fa, si è imbucato. Dado è con noi, caro Dado, come stai? Come stai? Eccomi qua. Beh, ciao, come ti eri preparato una cosa per noi sulle non si sa, su Marino dimettendo, invece sono arrivate le dimissioni di Marino. No, già arrivate? Sono già arrivate, non lo sì, sai, perché tu mio, sei dove insati, sei? Ma sta lavorando, è rinchiuso, si è dimesso. La sua registrazione a preparare il nuovo pezzo che uscirà domani. Ma devi aggiornarlo però, amico mio, perché qui si è dimesso tutto chiuso. Tutto vabbè, Marino si è dimesso. L'hanno stressato, gli hanno dato tante di quelle cose addosso, poi non ce la faceva più, non c'aveva più carte di credito. Io ho scritto questa cosetta perché voi mi avete preso per un jukebox, oggi mi ha chiamato Parenzo e ho detto: allora che fai, che canti, dando per scontato che io no, le sforno, le tiro fuori, faccio il pasticcere di canzoni, quindi ogni tanto tiro e sforno. Allora vabbè, l'ho preparata, te la faccio sentire un po' di fretta, quindi così, siete pronti? Vai a cappella. Poi mi dai la possibilità di salutarti come fai tu? Ma tu puoi fare quello che vuoi. Bellissimo il finale fare. Allora facciamo fare così, ciao. Aspetta, fermo lì che c'è la pubblicità, lo sai che noi i soldi c'è la pubblicità. Vabbè, ciao. Aspetta, annuncia la pubblicità, dai, Dado. Ecco la pubblicità, ciao. Combattenti di terra, di mare, dell'aria. Pubblicità a voi. La Zanzara. Io non ho invitato il sindaco Marino. Chiaro? Ma se pure il Papa che di mestiere fa, quello che assolve perdona, non è più disposto a farsi cogliona, aspettati un coro da Roma. Lo vedi, ecco Marino, per primo cittadino. Dado è con noi con una nuova canzone su Marino, questa era vecchia, che ha composto proprio oggi e sta finendo di comporre, però adesso ci sono le dimissioni. Com'è che fa Dado questa nuova? Allora, no, la canzone che sto preparando è sul sui parlamentari, sui gestacci, che esce domani. Ah, sì, Dan, eccetera, eccetera. Quella sì. Su Marino, che mi hai chiesto senza sapere che avrebbe dato dimissioni, fa così. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, tanto paga Marino e mica paghi tu. Le tasse a questo servono a fare economia, un pranzo di lavoro con moglie, figli e zia. Hai fatto colazione, però coi sordi mia, racconta un'altra favola e così sia. Beh, grazie. Cantata Dado a cappella. Grazie di questo regalo. Io direi una cosa, però, sì. Potresti candidarti sindaco. E adesso ti do un'idea. Secondo me, qualche... Guarda, se mi pagano il mutuo, io lo faccio. Ma che io come mutuo te lo paghi? Non lo so, dipende. Magari... con i soldi. No, guadagna sindaco, poco, guadagna poco. No, no, non voglio avere più il mutuo per i prossimi 20 anni. Se mi pagano tutto il mutuo, io faccio il sindaco. Scusa, no, che mutuo c'hai, per curiosità? Quanto c'hai? Mutuo. Quante c'hai? 600, 700? Comunque il pensiero del mutuo. Ma non sì, bisogna. Ragazzi, non bisogna farli i mutui. Quanti anni hai tu, Dado? Ce n'ho 41. Sì, a 41 forse ancora si ancora è conveniente. No, ma... mutuo a 5 anni, me ma è un incubo 25. Però. Ma 30 anni, ma come si fa a fare un mutuo per 30 anni? Non bisogna la casa, scusa. Ma no, vuoi... ma vai in affitto tutta la vita. Vuole lasciare qualcosa ai suoi figli. La vita deve essere io ho 3 figli, Cruciani. Ma io pure c'ho la vita. La vita deve essere vissuta tutta in affitto, tutta in affitto. Ma per lasciare qualcosa ai figli, tutta precaria, uno si può spostare da una casa all'altra. Ma guarda, i figli io se... ho avuto fortuna che ragazzi, ma i figli devono fare i cazzi loro. Ma gli lasciai qualcosa ai figli. I scusa, figli no? Devono imparare a che vuole Borghezio adesso. Adesso Dado, parla con Borghezio, ti prego, parla con Borghezio. Devo parlare io con Borghezio. Sì, vai, aspetta. Mario? Mario? Pronto. Dimmi Mario, aspetta un secondo, Mario. Io alla Magliana col comitato spontaneo dei cittadini. Sì, spontaneo, che vengono per la caduta di Marino, sai sì. Che gli abbiamo dato lo sfratto oggi. Come beh, no, se n'è già andato. Aspetta che ti passo il signor Dado. Conosci uno che canta, che si chiama molto bravo, che fa comico, attore, molto di sinistra, che si chiama Dado, che credo che non ti sopporti. Signor Dado, sì. Aspetta, il signor Dado. Pronto? Dado, parla con Borghezio. Pronto, Borghezio. E allora Mission de Venezia, vai avanti Andrio Cingondola. Dato sfratto. E mie tie Toni, andendo alla tettona e tasserella mona. Non la sento, non sento nulla. Va bene, ciao Mario, ciao. Allora, io voglio capire una cosa, i 30 anni di mutuo ci hai dato, 30 anni, perché Borghezio no, mi chiama alle 20:02? Perché 5 l'ho già fatti. Allora, 25 anni di mutuo. Ne mancano 5. Però, veramente, chi è il tuo preferito per fare il prossimo sindaco di Roma? Non so quando si voterà, perché in Italia non si vota mai, eh? Cioè, in Italia chissà quando sarà, adesso commissareranno, faranno inferno. Guarda, io vorrei fare una cosa. Adesso molti mi dicono, ma allora tu prendi le parti, allora sei un comico schierato. Se vuoi. A me, io ho una simpatia non tanto per il movimento, ma proprio per le persone. Guarda, i 5 Stelle, io li vorrei mettere alla prova, vorrei vedere proprio cosa fanno. Sì. È vero. Che bello avere questi che da qualche parte governano, caro Dado. Appunto. Sì, non con risultati, sembra non con risultati. La possibilità a loro, ma solo a livello sociale, vediamo che cazzo fanno. No, io sono d'accordo con te. Segnalo questo tweet molto divertente del mio amico Lelio Alfonso. Lo conosci Lelio Alfonso? Vabbè, dai, io conosco, sì, uno che lavora adesso per Passera. Per Passera, che scrive: si è dimesso Marino, tutto. Cordoglio tra i ristoratori. Questo è molto divertente. Questo è vero, ma lui è un bravissimo. Allora, fa delle freddure eccezionali. Sì, no, eccezionale. Che non c'entrano niente con Passera. Poi, Marino si dimette, cordoglio tra i ristoratori. Molto divertente. Stupendo. Lelio però, Alfonso. Sono d'accordo con quello che ha detto Dado. Cioè, prima o poi, devono essere messi alla prova di una città come Roma. Bravissimo. Di una città come Roma. Questo è vero. Fossi a Roma in questo momento, forse una chance era. Certo. Come, che dici Grillo, scusa? No, intanto non serve il comune. Ma come non è come si fa tutto da casa con un computer, un iPhone. Ma perché avrei dovuto mandare via Marino allora? Marino non esiste, ma perché non serviva più col Campidoglio, cosa cazzo? Lì si va a fare un sistema. Non serve. Ma come non serve? Da casa, da casa stai lì e dici devi fare il gra. E lo fai con la stampante elettronica. Non servono neanche gli appalti. Con la stampante. Reddito di cittadinanza, devi dire ogni tanto. Il reddito, ma chi è questo qui che è Dado? Ma Dado, che roba si è? Chiama, lo conosci? Ma uno che si chiama Dado. ma cosa vuole fare? Un dado. Il dado non esiste. Dado, dado, yakta. Ma che roba è il dado? Vabbè, un, è quello un attore, che si mette nella minestra. Ma il comico sono io, non è dado. Sì, quello è vero, quello è vero. Ma non ho capito, Grillo, non volete presentare l'unico che potrebbe vincere a Roma, che si chiama Di Battista? Mica potete presentare uno attraverso la rete, come al solito. Di Battista terrorista, ma chi è questo Di Battista? No, è un tuo deputato molto... bravissimo, sì. Di Battista l'abbiamo nominato nella rete. Ma, sì, ma com'è questa storia che dovete finire online, un mandato? In tutto online, non puoi, devi decidere. Vabbè, fai, metti, sulla metti sulla piattaforma e lo fai lì con Casaleggio. Abbiamo già telefonato e abbiamo messo tutti i nomi. Ci sarà uno, la rete sceglie, fai, grazie. Legge, il comune finisce, non ci sono i consiglieri, c'è uno eletto, fai click così, ta, raccordo anulare, stampante 3D, ecco il raccordo anulare. Però funziona, grazie. Così Dado, ma io veramente tu potrei in questo momento 5 stelle, uno dei 5 stelle sindaco. Guarda, io sono quelli più provocatori, quelli più che fanno più casino, quelli che vogliono rivoluzionare un po' il sistema, sono quelli che si vogliono distanziare dalla classe politica. E io voglio dargli una, ma è l'unica speranza, fammi vedere, fammi credere in qualcosa, dammi la possibilità di vedere che cosa possono fare, diamogli una chance. Poi se sbagliano e si dimostrano dei dilettanti, dei deficienti, andassero a quel paese. Ma secondo me, io tutti quelli che ho conosciuto fino adesso, tanto di cappello, ma veramente. Scusa un attimo, ma tornando alla questione del mutuo, ma ha dato? Ma tu che cazzo di garanzia hai dato per fatte dal mutuo, per ottenere il mutuo? Scusa. Beh, che c'entra? Io? Mutuo lo danno. Ma che garanzia? A te ti hanno dato una garanzia per il mutuo? Sì. E come hanno fatto? Io vengo da una famiglia piccola borghese. Ah, i genitori! Io sono un esponente della piccola borghesia romana. Bene, allora i genitori danno le garanzie sui genitori. Ma anche la mia ma ti vedono, questo fa le canzoni, le cose, ma che garanzia c'è? Questo fra due anni magari, esatto, in mezzo alla strada. Questo però la banca non lo sa, pensa che io sto sempre lì sulla cresta dell'onda. Come sono tremendo, sono una testa di cazzo, diciamo la verità. Guarda, la cosa che mi piace di più è quando dici vabbè ciao, che equivale, io se mi dici vaffanculo sono più contento, lo sai? Sì, esatto. Infatti devo trasformare il ciao con un vaffanculo. No, che è già troppo, è già fine. Troppo. Ha ragione Dado, è molto più fine dire vabbè ciao, come dire vaffanculo, è molto meglio effettivamente. Senti, invece voglio sapere un'altra cosa, la Meloni come la vedi, tu che sei uno di quelli che conosce bene? La Meloni veniva a fare la guardarobiera nel Tina Pica, che era un locale dove io facevo cabaret all'inizio della mia carriera. Lei era la guardarobiera lì, stava la guardarobiera del Tina Pica, come si chiama? Sì, perché era giovanissima, quindi si guadagnava un po' di soldi facendo la sera, dando una mano. E com'era da ragazzina fisicamente? Era molto carina, tant'è vero io non ho mai rotto le scatole per nessuno, però sarebbe stata una alla quale chiedere di uscire, perché con questi occhi di fuori magari pensavi, ma questa c'ha, cioè chissà chissà che gli vale fa, ecco. Cioè ti dici, l'hai vista, era avvelenata, diciamo, negli occhi, con gli occhi così sembra avvelenata, dici, sessualmente potrebbe dare molto. Sì, da una punto che di... promette chissà che cosa, una che, diciamo, invece di te la immagini sindaco di Roma, la destra vera, di nuovo. No, ma io sono... Tu sei di sinistra, te sei di sinistra. Forte anche questo, su Twitter, Marco Squilani, dimesso con 20 giorni di prognosi salvo complicazioni. Carino. Questi sono quei 20 giorni. Vabbè, non ho capito se non ce la vedi al Campidoglio. No, ma lei non è assolutamente, tutta anche lei molto, lei urla, fa, insomma, ha capito che è un prodotto televisivo, lei non va bene per il Campidoglio. Il Campidoglio poi devi lavorare, Roma è tentacolare, devi stare attento alla cosa, devi controllare tutto. Non è in grado di lavorare, no, sicuramente sa lavorare, questo è sicuro. La sì, Meloni è una che conosce la città, per andare a tirare voti in televisione, lei fa questo. Parenzo ha una parola buona per tutti, devi capire Dado, cioè ha questa sua caratteristica, una parola buona per tutti. Sai che io non la penso, e Parenzo praticamente si chiama, è tradotto in leccaculo. Tu sai che che io non la penso assolutamente come la Meloni, ma se c'è una cosa che quella fa, che ne sai che sa lavorare, questo non lo sappiamo. Ma non ha mai amministrato manco il suo condominio, dai. Politicamente è una che conosce la città. Che vuol dire? Quella è l'amministrazione. Dado vuole dire l'amministrazione, queste cose qua, la politica, certo che la sa fare. È una brava da quel punto di vista. Poi io non penso come lei nulla. Ho parlato a lungo anche con Alemanno, che ci siamo incontrati in. Tu hai parlato con Alemanno? Di Suor Paola. Come no? Che io vado a fare della beneficenza ogni tanto con Suor Paola, e lui era venuto ospite. E ogni tanto mi è capitato di scambiare due o tre parole anche con lui. E lui ogni tanto mi dice: no, ma io certe volte demando, io non so tutto, ci sono delle cose che mi devo fidare per forza, perché non è, e a me mi sembra assolutamente impensabile che uno gestisca una città e non sa, alcune cose le ignora completamente perché se ne occupa uno, perché ha saputo, qualcuno gli ha detto tutto a posto, non ti preoccupare, ci pensiamo noi, ecco, questo ci pensiamo noi, e poi qualcuno ti fa fare una brutta figura se quella cosa va male. Questa cosa è impensabile. Allora, qualcuno scrive: dopo 1947 anni Nerone sentitamente ringrazia per essere stato scalzato dal ruolo di peggior amministratore di Roma. Vabbè ragazzi, però Marino è stato pessimo, però i danni a Roma non è che ha fatti Marino, due anni e mezzo non è che hanno distrutto Roma. Roma è stata saccheggiata e distrutta dalla politica, tranne rarissime eccezioni, negli ultimi 20, 30, 40 anni. Saccheggiata, certamente non da Marino in persona. Marino può essere un ingenuo, incapace sicuramente, arrogante, presuntuoso, quello che vuoi, ma certamente non è quello che ha distrutto Roma. Non diciamo cazzate, dai, non voglio difendere nessuno, perché non voglio difendere nessuno, anzi noi con lo scherzo a paglia, caro Dato, abbiamo anche un po' contribuito a dargli una spintarella. La canzone parlava solo di quello, mi sono vestito da Monsignore apposta dentro quella canzone là. E ti lasciamo con la canzone che ci hai dedicato, grazie, ciao Dato, ciao, presto, ciao. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, tanto paga Marino e mica paghi tu, le tasse a questo servono a fare economia, un pranzo di lavoro con moglie, figli e zia, hai fatto colazione però coi soldi mia, racconta un'altra favola e così sia. Io se mi dici vaffanculo sono più contento, lo sai. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta La Zanzara. Viva la Padania, l'Italia non conta un cazzo. Andando a spulciare qua e là nelle cose del giorno, nei video, su internet, eccetera, eccetera, a un certo punto ho visto questa roba dell'aggressione a un giornalista di Report. Sì. Che è andato a fare delle domande a un signore che si occupa di elicotteri, all'amministratore delegato di non so che associazione elicotteri italiani, non so che cosa, accusato, comunque era al centro di un'inchiesta giornalistica sulla vendita di elicotteri non so dove, all'Iran. Un tale che si chiama Pardi, Andrea Pardi, a un paese canaglia, diciamo, a uno stato canaglia. Sì, questo tizio qua lo ha letteralmente aggredito, però lo abbia trascinato dentro la sua azienda, dentro i locali della sua azienda, questo che gridava aiuto, aiuto, distrutto la telecamera, meraviglioso, scena meravigliosa. Salve, dottor Pardi, mi scusi, è vero che lei ha intavolato trattative per vendere aerei a paesi? La telecamera, mi ha rotto la telecamera, mi sto rompendo la telecamera. La vuole smettere o no? La vuole smettere? La smetta! La smetta! Aiuto! Aiuto, qualcuno intervenga! Aiuto! Aiuto! Io proverei a chiamare questo signore. Pazzesco. Proverei a chiamare questo signore, il dottor Pardi, il professor Pardi. Che non è Pancio Pardi, ve lo ricordate, no, Pancio Pardi? Beh, quello di Pietrista, eccetera, eccetera. Vabbè, ci proviamo tra un po', dai. Andiamo a Pisa, Francesco, vai. Pronto? Dimmi. Buonasera. Niente, avevo detto di esprimere un parere per quanto riguarda Marino dimmi. E tutto il contorno. Purtroppo Marino è un soggetto, come dire, fuori luogo, purtroppo, perché è una persona, un signore, una persona per bene, in mezzo a tanti banditi a livello di PD. Aspetta un attimo. Pardi? Vediamo se risponde, eh. E rispondi, dai. Francesco, allora? Ti segnalo tweet di Flavia Vento, Sì, sì, lo so, lo so. Col fatto Marino, sì. Di Marino, che può sembrare un fatto locale, insomma, c'è. Abbiamo raggiunto il fondo in Italia come moralità politica. Che vuol dire? Perché non esistono più statisti, Renzi per carità è stato definito, però è un pezzo veramente. Non lo dico perché altrimenti... Ma non ho capito che vuoi dire, che vuoi dire? Spiegami. Voglio dire che l'eventuale dimissione di Marino sono una sconfitta per tutto il sistema. E quel Parenzo che fa tutto il leccaculo col PD e cosa, che cazzo ne sa lui? Il PD, io sono un comunista dei tempi di Berlinguer e prima ancora. Ma che c'entra questo, scusa? Che c'entra? Non c'entra, che non c'è più moralità. Cioè, in questo caso tu dici per gli scontrini, i ristoranti eccetera eccetera, sì, però voglio dire ragazzi, cioè non ma infatti secondo me sarebbe dovuto dimettere prima, a me pare di moralità, allora? Secondo me per cui appena uscita questa cosa è deficiente, perché se lui sta un po' zitto secondo me ci guadagna la caro amico mio, io ho detto da subito che lui si sarebbe tuo, guarda, vaffanculo, come direbbe il partito, come era ai tempi te saresti stato espulso, perché te sei un lecchino, ma no, veramente all'epoca sei la sega, non sai, però non ti permettere di parlare con me, ma non ho capito, questo idiota. Aspetta, perché a questo punto bisogna usare i termini giusti. Ma questo cosa vuole da me? Questo qui? Perché ti arrabbi? Farlo. Allora, no, Francesco, ma io non mi arrabbio. Non mi arrabbio, lui che si arrabbia. Che io quando si contraddice, diventa tutto petulante, tutto pigolante. Cosa mi sarei contraddetto, amico mio? Sei un cartone animato. Però pronto? Su che cosa mi sarei contraddetto? Ma chi è che dice TV sei brutto? È un suggerimento. Io lo dico io, no, la moglie ho sentito la voce, la ex moglie, la moglie l'ho sentito sotto. La voce di una donna sotto, la ex moglie, sì, no è la mia famiglia, qual è che si moglie? Non lo so, beh, diventerà io ex dopo che ti ha sentito la radio, diventerà ex. E io ho 65 anni, capito? Come la moglie di 36 anni, scusa? 36 con una bambina da 9, e allora dov'è il problema? Scusa, no, che problema? No, perché che adesso che ti ha sentito la radio, se ti lascia, ma no, è che ormai si vergogna, poverino. Ognuno va dove, ma no, poverino, ci sei te, stupido. Capito, siccome si vergogna, esce dalla macchina adesso. Perché io ti ha sentito la radio, esce, capito? Dentro un camper dove ci abito, perché sono stato ridotto in povertà da un sistema politico di. Che era quello che era, a cominciare da Monte a tutto il resto, hanno rubato, rapinato e tutto il resto, ha messo un concesso che 20.000 euro magari non lo so per quale motivo, non voglio sapere il motivo, e il senso di scandalo che si è creato, Marino, 20.000 euro, e 50 milioni di euro, e 100 milioni di euro e tutto il resto. Non si è scandalizzato nessuno in Italia. Ma Francesco ha un accento palermitano, pur chiamando da Pisa. Bravo, bravo, e me ne vanto, anche se risiedo qui da tanto tempo. Allora, Francesco, qui in Italia ormai siamo vizi private e pubbliche per tutti. Allora, ha 65 anni e sta con una donna di 36 che parla in sottofondo, peraltro, e che secondo pare. Nel camper, quindi non ce l'ho una casa. Ecco, questa cosa è curiosa, cioè tu vivi nel camper? Sì, sì. Ma con chi? Con tu, la tua compagna e poi? No, lei abita dai suoi genitori, lei assieme alla bambina. E tu che cazzo fai nel camper da solo? Scusa. Beh, si vede che non ci può andare. Cosa adesso faccio? Siamo vicini. Io sono piazzato là, il comune, per dire qua, mi ha dato un culo. Siamo veramente al top assoluto, cioè il top. Voglio dire, non è che io me lo prendo pure a ridere. No, però scusami, questa ragazza di 36 anni sì. Sta con te che vivi in un camper, però lei vive con i suoi genitori, giusto? Sì, ma abbiamo una bambina in comune che ha 9 anni. E dove vive? Intelligente, bella e credimi. E questa bambina di 9 anni con chi vive? Coi nonni. No, dicendo la verità. Scusa un po', zitto un po'. La bambina. State muta, si dice. State muta. Deve andare a scuola ed è giusto che vada a scuola. Com'è che si dice in palermitano? State muta. No, non sono di questo cosa, capisci, di questo maschilismo. L'hai detto prima, però, state zitta, l'hai detto prima di quello che ho detto io. Nel senso che sto parlando, cioè, capisci? Cioè, ho capito. Solo per quello. Però, Francesco, Parenzo prima ha detto che tu ti lascerai dopo questa telefonata. Ma no, stavo scherzando. Questa telefonata ha detto che sicuramente lei ti lascia perché stava dicendo delle castronate. Ma pensa, pensi a lui e alle sue corna probabilmente. Vabbè, quello perché lo possiamo ci verificare. Ci si sente, no, noi non voglio litigare. Ma sei stavo scherzando, sei. Svegliati, stavo scherzando in questo dire, caso. No, ma te lo dico per te. Te sei rimasto ancora con la mentalità del liceo o dell'università. Ma tu sei uscito non... da quegli ambiti. Ci siamo usciti. Ma io non tutti. Ho capito che cosa vuole da me questo. Ma tu, ma però cosa voglio dire? Questo non ho capito. No, cosa vuoi da me? Questo non ho capito. Cosa vuoi da me? Si vuole sfogare con te perché sta sulle palle quello che dici. Ah, vabbè, allora va bene. Un poco. Che cresci un po'. Va bene, prego, dica. Devi crescere, dica, ha detto, devi benissimo, crescere, dai. Benissimo, a disposizione. Quanti anni in più di te ce l'ho? La vita la vivo. A disposizione, prego. Però io voglio capire una cosa. Però, Francesco. Non vado a rapinare, a tentare il rapine, a rubare un altro. Io vivo dall'alto della mia dignità di povero, senza rubare. Ma scusa un attimo, come sei finito nel camper? Raccontaci un attimo, come sei finito in un camper? Come sono finito? Io avevo un lavoro, facevo il padroncino. Sì. Nel 2009 crisi, non pagava più o meno nessuno. Nel 2010 dall'oggi al domani si sa, non si sa più bisogno eccetera, sì, eccetera. Sì, perché sì. È subentrato un gruppo di, diciamo così, casertani. Casertani pure no, adesso noi abbiamo lavorava, tutti contro, però pure i casertani adesso. Comunque vabbè, dai Francesco. No, ma i casertani, scusa, ma non è una questione di mafia, di no, ma per dire, così è una battuta. Le cose ci credo o non ci credo, come lo scandalo adesso. Vabbè, Bucarella. è andata male questa azienda e si è stato cacciato. Ma io voglio capire una cosa, come fai a perché di queste cose? Io mi sono rivolto all'istituzione, non sono andato mai a rubare. Sono andato pure a chiedere all'ospedale. Ma con quanto campi? Con quanto campi di soldi quotidianamente, mensilmente? Con quanti quando soldi? Quando mi arrivano 200 euro al mese da un affitto di una casa dei miei poveri genitori che devo dividere con i miei fratelli, loro rinunciano alla loro parte e la mandano per rame. E anche tu sei uno di quelli incazzati perché gli extracomunitari prendono 35 euro al giorno, quelli che vengono in Italia? No, sono i costi, loro in tasca non ci va nulla, il discorso è che su queste 35 euro al giorno se andiamo nel merito ci mangiano tante associazioni. Bravo, vedi, hai detto una cosa giusta. Ci sono i vari, come si chiama, Buzzi, eccetera eccetera, che si fanno il buzzo bello grosso, cosa che voglio spiegare a Parenza che è tutto pietino. Ma è d'accordo con te, io sono d'accordo con te. Capisci, questo è il dramma, mi fa incazzare Parenzo. Ma il dramma, hai capito o no? Che io sono d'accordo con te, cioè forse quello che hai detto male. Non questo è un dramma per me, io sono felicissimo. Ma io sono d'accordo con te perché guarda, io vi seguo come un'ombra. Ecco, ma come cioè, fai la dignità di questo signore che dice vive in camper e però non... scusami, fammi ascoltare questa roba. Tu nel camper accendi la zanzara ogni sera? Sì, c'ho la radiolina a transistor perché la luce non c'è, no, e cosa va? No, ogni sera, io è tutto il giorno. Tutto il giorno, c'è Mario giorno. Platero, signor tutto Platero, dal camper in provincia di Pisa. In provincia perché di Pisa. Platero devi ascoltarlo solo dal caminetto, non ho a capito. Me lo dici, io adoro Platero. Scusami, Francesco. No, Platero è una persona abbastanza intelligente, senza offesa, Parenzo. No, ma è Platero è molto simpatico. Che ha cultura, che ha... però scusa, ma com'è possibile ignorante. Che sta ragazza così giovane è venuta con te? Spiegami, Francesco, spiegami sta cosa. Perché è la follia dell'essere umano. Appunto, definiamola così. Tu non c'hai un euro, stai quasi praticamente un morto di fame, detto in senso no, positivo. Quando ci siamo messi insieme non era per soldi, perché vedi, scusa, ti voglio dire, dimmi. Non è nella vita solo i soldi. Ognuno di noi porta in sé, no, come si chiama? Come, in culo, non t'offendere. Come si chiama la ragazza? Come si chiama? Francesca, come me. Francesca, perché mi ha mandato a fare in culo? Perché gli hai detto che... ho preso pure la moglie. No, perché che ho fatto? Che ho detto? Ma gli hai detto che sta con lui perché non c'è, anche se non c'è la lira. Scusa. No, ma non ho detto questo. Ma come l'hai appena detto? L'hai appena detto. È una domanda, perché non ho detto. Passami Francesca un attimo. Paraculo. Passami Francesca. Ma che è arrabbiata, giustamente. Ma il paraculo qua sei te. Ma non tu, Cruciario Paraculo, che ha detto che tua moglie sta con te. Passami Francesco, non ci vuole parlare adesso, non ci faccio parlare, è arrabbiata per forza. Però ti voglio dire, non è Parenzo, cioè, no, Parenzo quell'altro Cruciale. Qua finisce male, guarda, no, però ti voglio dire, sì, certe volte quando appunto io poi mi indigno che uno come Marino eccetera eccetera, perché tutto è connesso nella vita, tutto è connesso, sì, certo, tutto è connesso, allora ha una ragione politica, allora etica, che voglio dire voglio dire che l'amore esiste, Ma chi ha detto che non esiste? No, no, ma qua io sento fare dei discorsi, appunto, se uno c'ha i soldi, uno c'ha i soldi. Noi, quando ci siamo innamorati, sì, io ero già sposato con una che aveva cinque figlioli, cioè una, cioè avevamo cinque figlioli. Ecco perché ti sei rovinato, amico mio, ecco perché ti sei rovinato. Prima ti sposi con uno e fai cinque figli, poi ti lasci, ti metti con una ragazza, fai un figlio di nove, ti licenziano dal lavoro. Amico mio, bisogna stare un po' più attenti. Invece... No, aspetta, io non mi sono licenziato dal lavoro. No, ti sei licenziato, t'hanno licenziato, questo volevo dire. No, non mi hanno licenziato da solo perché i camioncini non hanno chiuso l'azienda, che è successo? No, non c'era più lavoro perché quelli hanno preso tutto, insomma. Vabbè, che devo fare? Senti, io ti abbraccio fortissimo, viva il camper, viva, no, la zanzara, no, no, però passami un attimo Francesca, scusa. Scusa, mi devo riconciliare. Perché? Mi devo riconciliare. No, dai, parlaci, parlaci. Non morde, dai. Stasera si è mangiata una bella bistecca alla Fiorentina. No. La figliola può parlare, dai, ma no, puoi parlare. Dai, Francesca, Francesca, Francesca, no. Pronto. Comunque, mamma, chi sta con l'amore con papà? Chiaro? Certo. Vabbè, sì, ma io non volevo offendere. Hai detto una cosa, ma come no? Anche la bambina si è arrabbiata. No, ma io. Ma scusa, ma certo che ci sta per amore. In questa situazione. Ma hai detto tu, perché ci sta se non c'ha una lira, gli hai detto. Scusa, poveretta. Adesso non cambiare le carte in tavola, assumiti la responsabilità di quello che hai detto. Scusa. Io, Francesco, non ho detto così. Diciamo hai la detto così, hai detto, risentite la registrazione. No, ho detto, com'è possibile? Com'è possibile che sei risolto? Che uno anche è ridotto così, 200 euro al mese, il camper. Ma sai quanti ce n'è come me? Ma sai quanti ce n'è qui in Toscana? Se fanno tutta la bocca larga e cosa va? Se te sei islamico, se ti puoi permettere tre mogli, lascia il tuo paese, te lo dico io come funziona. Passami un attimo, poi Francesco. Tu sei qua, no, è un modo per dire, cioè di dimostrare, ed è dimostrabilissimo. Tu te la lasci per dire in Senegal. Sì. Hai 12 figli con tre mogli. Io ci ho lavorato con uno così. Allora? E allora sai cosa fai? Vengono qua, affittano una casa, si portano con una, perché nell'Islam c'è la concordia tra le mogli. Dopodiché si portano i 12 figlioli, fanno domanda alle case popolari. Sì, è vero, è vero. E ti fottono, Però nessuno fa il porco. Non voglio bestemmiare. Ecco, beh, meglio di no, No, di controllo incrociato a dire che se tra un figlio e l'altro quante mesi fanno? Perché per la contraria, almeno 9 mesi. Devono passare. Mesi ci devono passare. Allora, questo collegamento straordinario che non so se è dalla macchina, dal camper o da casa. Dal camper. Fra poco ritorneremo dal camper di Francesco, di Francesca. Come si chiama tua figlia? Elena Rosa. Meravigliosa. Meravigliosa. Questo, vabbè, tutti i padri dicono così. Francesco, no, no, Francesca. Il telefono è bella mamma sua. Quello sei. Francesco, Francesca, Elena Rosa in diretta da un camper vicino Pisa. A tra poco. Sei un cartone animato, fatto male. La zanzara. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Deo, usai una sega, non sai. Backbeat, the word is on the street. Io adoro sempre di più questo personaggio, Vincenzo D'Anna. Personaggio meraviglioso, un fumetto, grande intelligenza, grande sagacia, certo verdiniano, ex cosentiniano, molto vicino a Cosentino. Personaggio discusso, ma se non ci fosse uno come D'Anna a fare tie, suca, in aula, ma che cazzo, cioè, che cosa facciamo noi? Cioè, come possiamo campare senza personaggi stupendi per loro essere degli attori nati? Perché D'Anna è un grandissimo attore. Ma non deve stare in Parlamento, appunto. Ma sì, ma perché in Parlamento ci possono stare anche questi qua, ci devono stare anche Buonanno, che forse sarà Abbiamo il diritto di biasimarli. Ma tu li biasimi, io pure ogni tanto li biasimo. Allora Danna cosa ha detto della taverna, la conoscete? Poi ma se tu sei contento di pagare gente così, va bene. Ma paghiamo un sacco di gente molto più inutile. Allora Danna, la taverna ha un certo tipo di disturbo. credo che sia un disturbo neurovegetativo, se mi consente. Quale? Quello della senatrice, perché questa senatrice si è distinta per il turpiloquio nel Senato nei mesi in cui ha svolto il ruolo. Un disturbo neurovegetativo. Poi dice che ha dato alla prostituta la Boschi, ma questo l'aveva detto anche da noi. Il Partito Democratico ha chiesto a Grasso i filmati del giorno precedente, quello di giovedì, perché vuole che si sanzioni la taverna, e non lo mimo il gesto, che con il dito medio alzato e appellava di prostituta il ministro Boschi. Poi a un certo punto si scontra con Cattaneo, quello di Forza Italia. Gente come te, Toti, non arriva ai tacchi. Non so di chi stavano parlando, vai. Senti, Marcello Pera, me ne sono andato da un partito dove ci sei tu. Lei è stato eletto. Quelle persone non arrivate ai tacchi delle scuole. Questa è la verità. Fermi un attimo. Dice ora nel partito ci sei tu, la Pascale, la Rossi. Il senatore Danna è stato eletto. Un partito sotto dove c'è il partito del popolo della libertà e dove c'è tutti insieme no. Adesso ci sei tu parlare. Con la Pascale e con la Rossi, che è una vergogna. Posso adesso? Qual è la vergogna? La storia politica. Qual è la vergogna in Ci ricolleghiamo, con il camper di Francesco. Vai Francesco, vai, vai. Francesco. Francesco. Francesco. Pronto? Mi senti o no? Sì, ora sì, perché avevo il telefono. Ma chiudi, abbassa la radio, dai, abbassa la radio. Sì, no, la sto spengendo. Ah, ecco, no, perfetto. Un dibattito nel camper, da premettere che è dell'88 il camper, quindi non è l'ultimo. Che dibattito volta. C'era? Su che cosa? È qui con la mia compagna e con la bambina. La bambina dice: appena parente, dice capo c'è in questo camper, dice oh, un calcio, lasciamo stare il po'. No, ma apparenza, tutto sommato, sì. Fa tenerezza, nel senso. Perché lui vuole fare, secondo il nostro punto di vista, sì. Vuole fare il paladino, cioè il bastian contrario, quando magari certe volte non è il caso. No, veramente è una cosa un po' diversa. Però io vorrei fare pace con Francesca e voglio chiedere anche scusa se l'ho offesa, capito? Offesa. No, ma quella offesa, dai, cioè... Beh no, però passa, perché voglio chiedere scusa, dai. Lo so, tu vecchio puttaniere che non sei altro. No, dai. Ma che c'entra puttaniera adesso? Se vuole parlare, se vuole chiedere scusa, dai. Voglio chiedere scusa a Francesca, dai. Passamela, dai, che voglio chiedere scusa, davvero, se l'ho offesa. Perché pronto? No? Francesca, scusami, quanti anni hai, scusami? 36, compiti il 6 ottobre. 36 il 6 ottobre. Allora, io prima non intendevo dire come hai fatto, come fai a metterti con un morto di fame, capito? Non c'è più critiche. No, voglio dire, non volevo dire come hai fatto a metterti con un morto di fame, uno che non c'ha un euro, perché probabilmente non è... Noi ci siamo messi insieme quando si stava bene. Sì. E poi c'è successo questa cosa qui e noi ci stiamo tirando su. No, ma non ti ho offeso, ti sei sentito offesa per quello che ho detto? Sì, la prima cosa è chiacchiata. No, ma... Pensato... Ma no, ma io so che voi... ho capito che state insieme perché lo sento dalle voci per amore. Volevo dire semplicemente che... Noi ci amiamo come... giorno. Una ragazza giovane come te, con una persona che ha quanti anni di più? Quasi 30. Con i 30 anni fra me. Lui. Quasi 30, diciamo. Come 30, dire. Quasi. Esatto. Con messo, diciamo. No, non è Woody Allen, sta dicendo, nel senso che è un bell'uomo? È un bell'uomo? Com'è? Sì, per me sì. È un bell'uomo. Da morire è bellissimo per me. Ma scusate, ma una curiosità, ma tu vivi dai tuoi genitori, no? Sì. Lui vive in camper, come fate come fate a stare insieme, diciamo, fisicamente, a trombear, come si dice? Questo chiederà a lui, perché, amore, mi sa chiedere come si fa, è le nostre cose private, scusami. No, non sapevo che andava a fare. No, certo, come, come no, fate? Fa, come, fa, come fate, appunto? Certo, non si fa come magari 10 anni fa, perché sai, a una certa età poi. Anche, però. Cioè, come fai? La pillolina. La pillolina, pigli? Come? La pillolina, pigli? La minorina. La pillolina, la pillolina. La bimba. No, la pillola, la pillola. Il Cialis, il Viagra, amico mio. No, quello c'è l'SBA che ascolta. Non ce n'ha bisogno! Che, voglio dire. Vabbè, non c'è bisogno, ma... abbiamo saputo, l'ha detto lei, non c'è bisogno. Ma no, come, quello ma... che si può tirare si tira. Io diciamo, sono. Non che sono uno che si contenta di poco, sai, tutti minimalisti, ma io ma qua ma là. Noi si fa l'amore tanto per essere espliciti, perché sì, quello è dobbiamo essere espliciti, certo, certo, cioè quando ce l'abbiamo voglia, e questa voglia ci viene spesso. Vabbè, questo però va benissimo, perché a me l'attizia, io a lei l'attizia, aspetta, non sono né super dotato, sono alto 1,60 m, lei c'ha 10 cm più di me, sì. È una gran topa, ha belle puppe di quelle, non voglio fare, capisci, il lenone, però è la realtà. La realtà è quella, la realtà. Tu diciamo sei... le cose in faccia. Diciamo le cose come sta, diciamo. Perché ti seguo? Perché sei la fotocopia, in un certo senso, sì. Nella versione italiana, di un film che ho visto anni fa, sì. La dura realtà. Ah, fammelo segnare. Non me lo ricordo. La dura realtà. La dura realtà. Te lo consiglio di. Grazie, grazie. Lo vedrò, lo rivedrò, lo vedrò. Insomma, io mi scordo i film, i titoli dei film. Dunque, darsi pure che l'abbia visto. La dura realtà. Non è un film che ha fatto, però io l'ho visto. E poi te mi ricordi quel film che a me è piaciuto molto. Poi dice De Gusto e Busto. Senti, ma io, perché sono un po' sempre. Mi hai spiegato benissimo qual è la tua vita sessuale con la tua partner, con Francesca. Ma dove avviene tutto ciò? Nel camper o a casa sua? Nel camper, sì, anche vabbè. In posti diciamo non tradizionalmente, certo, non nell'erba, nelle cose, però tempo fa, quando io andavo a fare un po' così, sì. Piano bar, cose varie, sì. Insomma. Dove ci succedeva, cioè ne abbiamo fatte di cotte e di crude e vabbè. Siamo infelicemente felici. Vabbè, ragazzi, io la ricetta che consiglio a tutti. I soldi servono fino a un certo punto. I soldi, qui siamo nella radio di Confindustria, è molto bello quello che stai dicendo. I soldi servono fino a un certo punto. Francesco, io vi abbraccio. Francesco 65, Francesca 36, se non sbaglio. E sì, Elena Rosa 9. Elena Rosa 9. Sì. Fantastico. Il 2 di dicembre. Da un camper. Da un camper dell'88. In provincia di Pisa, dove esattamente? Vicino Pisa. Sì, Cascina. Cascina. Ciao, a presto. Di merda, però. Come un paese di merda, amico mio, adesso ti vuoi. No, no, è un paese. No, scusa, ma tu dici la dura. La dura realtà, la dura realtà, la dura realtà. Un paese di merda. Un paese di merda. Di bigotte, di gente infame che sparla, non si fanno i cazzi loro. E tu è un bel vivere questo. Un paese di merda. Dimmi. Mi sento felice che già riesco a sopportare tutto ciò. Ma sai perché? Perché? Perché amo la mia compagna e amo la bambina. Mi raccomando, alle 6:30 alle 6:30 il camper si accende la zanzara, mi raccomando, amico mio. Ciao. Ma lo dici a me che tutto dopo un anno finalmente ti posso parlare. Ciao amico mio, ci sentiamo presto, chiamami quando ciao, vuoi. Lavoro, chiama quando cose. Vuoi, ciao, mi ciao. Raccomando, ciao, ciao. Ciao, ciao. Cioè, ma di fronte a tutto questo, ragazzi. Di fronte a tutto questo, a questa storia meravigliosa, ma non bella, una storia anche cruda, no? Vera. E cosa è le dimissioni di Marino? Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Chi devo sentire adesso? Uno che vuole parlare di Marino, avanti. Antonio, provincia di Siracusa, dai, dimmi. Buonasera a voi due e a tutti i radioascoltatori. Dimmi. No, niente, va. Come niente, come me niente. Faceva meglio di metterci prima, perché già con il fatto dell'esclusione di Marte Capitale, un po' tutti i pezzi grossi si sono messi da parte e l'hanno un po' isolato. E lui poteva sopravvivere politicamente se si dimetteva, anche a costo di perdere il centro-sinistra all'elezione a Roma, però lui salvava la sua faccia, salvava la sua carriera politica. Così si vede che lui non è un politico, sarà un bravo medico, non so se un chirurgo infantile. Adesso però non si può pensare era meglio se si dimetteva prima, era meglio se. Non si può negare che non è una stratega politica. Vabbè, grazie. Mario Napoli, vai, Mario. Mario? Ciao Giuseppe, buonasera. Vai. Torniamo al discorso delle armi. Sì. Quel signore di prima che diceva di dormire con una pistola sotto il cuscino. Sì. Secondo me di armi non ne ha mai viste. Io sono un tiratore sportivo, possiedo un regolare porto d'armi di tipo sportivo, sì. Uso le armi da molto tempo per divertimento, anche sott'acqua, perché sono un buon cacciatore subacqueo. Allora, il discorso è questo qua, la difesa va impostata passivamente prima di tutto. Sì, vabbè, amico mio, adesso qui non stiamo facendo il corso di autodifesa. No, non è un corso. Perché devi dire che quello ha detto una bugia? Non mi sembrava. Non mi sembrava. Una bugia, se è una verità è ancora peggio. Vabbè, ma sotto il cuscino, è un modo bellissima. Ma è un modo di dire. Ma non si dicono queste cose. Ma che vuol dire? Non è giusto che passi. Ma io lo so benissimo che non sono uno scherzo. Non si gioca con le armi, sì, però amico mio, quel signore lì diceva semplicemente che aveva una pistola a portata di mano, cioè sotto il cuscino, anche perché uno si fa male con la testa sotto il cuscino. Che vuol dire sotto il cuscino? È un modo di dire. Anche se è rischioso, ha detto anche se so che può essere rischioso, ma me la tengo lì sotto il cuscino, anche se è un cazzaro, dai, c'ha ragione. Chiamano i cazzari che pur di dire ho le armi, sparo, ti racconterebbero qualunque cosa. Ma perché lo stai dicendo che è un cazzaro? Ragazzi, comunque dai, ci sentiamo perché domani. Non è vero. Era uno tranquillo, calmo, che ha raccontato il fatto che dopo una rapina che ha subito ha preso la pistola e il porto d'armi. Ciao. No, quello c'è la SBA che ascolta. Non ce n'ha bisogno! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24, la passione si sente.